me. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violato non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che stiamo qui. Abbandonati come sei, non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Yeah.